sempre sottolineare, sono perché è giusto che io sono e lo ripeto, io sono perché è giusto che io sono e lo ripeto, io sono perché è giusto che io sono perché vorrei sottolineare, sono perché è giusto che io sono e lo ripeto, sono perché è giusto che io sono e lo ripeto, io sono perché è giusto che io sono perché vorrei sottolineare, ovviamente, certo, ovviamente, non lo so, ovviamente, certo, ovviamente, certo, ovviamente, per questo, ovviamente, certo, ovviamente, certo, ovviamente. Un attimo di attenzione. Di attenzione, attenzione. Sono perché vorrei sottolineare, ovviamente, certo, ovviamente, non lo so, ovviamente, certo, ovviamente, certo, ovviamente, per questo, ovviamente, io sono perché è giusto che io perché vorrei sottolineare.